Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, quel doloroso rumore, a terra il povero cuore non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più. Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più. Ma io voglio di parlare, di stare a ascoltare, di continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerà? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Si tratterebbe di nuotare, prendendola con calma, farsi trasportare dentro due occhi grandi, magari blu. E per doverli liberare, attraversare un mare medievale, lottare contro un drago strabico, ma di draghi baby non ce ne sono più. Forse per questo i sogni sono così pallidi e bianchi e rimbalzano stanchi tra le antenne lesse delle varie TV. Ci ritornano in casa portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti quanti che applaudono, non ne vogliamo più. Ma se questo mondo è un mondo di cartone, allora per essere felici basta o niente, magari una canzone, o chi lo sa. Se non sarebbe il caso di provare a chiudere gli occhi, e poi anche quando hai chiuso gli occhi, chissà cosa sarà. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so. Sempre in fretta non ti fermi mai. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so.